Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Basta pubblicità volgari in TV, sui giornali, sui manifesti, lungo le nostre strade. Basta lo sfruttamento del corpo femminile negli spot. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi per l'antologia estiva di Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, torniamo a parlare della battaglia contro la pubblicità sessista. La pubblicità che propone un'immagine degradante della donna per promuovere di tutto, dal caffè alla gomma sigillante. Dimmi come ti vesti e ti dirò chi sei. Non vogliamo cambiare il claim di essere e avere. Questo è il titolo di un'interessante ricerca del Dipartimento Marketing dell'Università Bocconi che vi riproponiamo nel secondo dei nostri approfondimenti. Focus sui trend dedicato invece a una delle tendenze emergenti del retail. Parliamo di edu shopping, quando comprando si impara. La borsa della spesa. Prendimi per le prestazioni, montami a costo zero, fidati, te la do gratis. Sono solo alcuni dei claim di campagne pubblicitarie sui prodotti più disparati. Le immagini, siamo in radio, non possiamo mostrarvele, ma sono facili da dedurre. Corpi di donne più o meno svestiti, interi a tutto schermo o a porzioni varie. La volgarità e lo sfruttamento del corpo femminile in pubblicità, lo dicono in molti, hanno ormai raggiunto livelli limite. La Reclame è un progetto video in formato web series firmato dal collettivo artistico Le Occasioni. Non chiederci la parola, la casa di produzione, con l'intento di raccontare in modo ironico, con l'utilizzo di una voce fuori campo, questo tipo di campagne. Il colore dominante è bianco panna. Al centro dello scatto il modellino verde mela di un'auto sportiva rompe la monocromia. Appoggiata con due mani e un ginocchio alla macchinina verde c'è una Barbie con una lunga chioma biondo platino che sorride con la bocca semisocchiusa. Il suo abbigliamento è inusuale. Un paio di stivaletti neri col tacco alto, ornati di fibbie, una minigonna inguinale in lattice nero e un top giallo che lascia scoperto l'ombelico. Claim, venite a giocare. Cliente, Motor Show 2009. Agenzia Armando Testa. Colonna sonora, l'accattivante Shake It. Primo fotogramma, un sedere femminile, giovane e sodo. La musica incalza. Secondo fotogramma, gambe nude di donna si muovono su calzature sportive. Terzo fotogramma, glutei femminili, giovani e sodi, onteggiano dentro un hula hoop. Cliente, Reebok. Agenzia DBB Worldwide. Il protagonista è un ragazzo con un paio di jeans. È arrivato nel cortile del palazzo da cui qualcuno ha ordinato 5 pizze. Si ritrova circondato da una serie di finestre illuminate. Dietro ogni finestra si esibisce una donna vestita con biancheria intima, come nelle vetrine di Amsterdam. Claim 001 step to an exciting job. Cliente Melting Pot. Agenzia Armando Testa, Torino Executive. Chiunque può segnalare una pubblicità a info@nonchiedercilaparola.com. Vogliamo raccontare la debacle delle agenzie creative contro le facili scorciatoie, ci dice Cristina Sivieri Tagliabue di Non Chiederci la Parola. Un format che racconta in maniera disincantata e ironica quelle che sono le pubblicità poco rispettose nei confronti del corpo femminile. In realtà non siamo tanto denunciatare, quante siamo delle persone che vogliono ironizzare con un occhio femminile, disincantato, disilluso, se vogliamo, e divertito. Ogni settimana, grazie a una rete di associazioni che ci inviano delle pubblicità che sono offensive appunto o poco rispettose, in realtà facciamo questo format. È un video che racconta come sono fatte queste pubblicità in maniera molto discreta, senza aggettivazione alcuna. Se ne esce che finalmente le persone possono capire chi è il titolare dell'azienda che ha fatto la pubblicità, chi è l'agenzia creativa e chi è l'art director, in modo da anche in qualche modo raccontare le debacle di quelle che sono le agenzie creative, che alle volte non sono proprio così creative, utilizzano delle scorciatoie che tutto sommato siamo capaci tutti, no? Una famosa azienda che offre traghetti da Napoli alle isole, che dice abbiamo le poppe più belle del mondo, un'altra azienda di software antivirus che immortala una donna in piedi su una scrivania e un uomo seduto invece su questa scrivania che guarda in alto e dice 100 milioni di persone vogliono la stessa cosa e si tratterebbe di questo, di un antivirus. Non chiederci la parola aderisce al manifesto per un utilizzo responsabile dell'immagine femminile promosso dall'associazione Pari o Dispare, che ha lanciato fra le altre cose la proposta di un'authority indipendente per la parità di genere, in grado sia di condannare le pratiche discriminatorie sia di promuovere quelle più virtuose. Emma Bonino, presidente onoraria di Pari o Dispare, al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Ci sono comportamenti, esempi, insomma, di questi giorni è inutile elaborare più di tanto. Penso che la migliore risposta la stanno dando iniziative come queste, che appunto non si limitano all'indignazione, ma che propongono di voltare pagina, e questo voltare pagina intanto lo dobbiamo pretendere noi, dobbiamo attivarci noi, perché il degrado ha raggiunto, a mio avviso, livello assolutamente intollerabile. Le aziende che hanno aderito al manifesto per l'utilizzo responsabile della figura femminile in pubblicità lanciato dall'associazione Pari o Dispare sono già una ventina. Con il manifesto viene sottoscritto l'impegno a non associare il proprio marchio a messaggi discriminatori o degradanti, escludendo stereotipi di genere in favore di una più originale e creativa rappresentazione delle donne. Anche qualche comune è sceso in campo, il Consiglio Comunale di Trento ha approvato una mozione che blocca l'uso di immagini lesive della dignità delle donne lungo le strade cittadine. Una battaglia questa che si affianca a quella sull'immagine delle donne nella TV italiana, dibattito innescato dal libro documentario Il corpo delle donne di Lorella Zanardo. I volti e i corpi delle donne reali sono stati occultati. Al loro posto la proposizione ossessiva, volgare, manipolata di bocche, cosce, seni. Una rimozione e sostituzione con maschere e altri materiali. Dove sono finite le qualità del femminile nelle immagini che oggi dominano? Allora, belle e mute in TV sono così le donne che piacciono forse agli uomini? Non lo faccio per me, lo faccio per gli uomini italiani. Ti tocca la doccia. Fare la doccia. Prego. Vai, Sara. Sono venuta per ricordare il televoto. Allora, la domanda di oggi: vorresti vedere tua figlia nuda sui calendari? Chiamate dal telefono fisso il numero 163311 oppure mandate un sms al numero 48313 e potete scegliere tra tre opzioni. Uno se siete favorevoli, due contrari e tre se invece vostra figlia ha già posato nuda su un calendario. Siamo donne, oltre le gambe sei di più. Non è divino. Che cosa? Tiffany. È una meraviglia, vero? Capisci cosa intendo quando dico che niente di brutto può accaderti qui? E non è per i gioielli che a me non piacciono, tranne i brillanti, si intende. Oddio, è anche vero che i brillanti prima dei 40 fanno cafone. Beh, hai ragione. Ma nel frattempo dovresti pure avere qualcosa. Aspetterò. Colazione da Tiffany insegna: la classe non è acqua e non ha nulla a che fare con lo scontrino. Ciò che indossiamo rivela molto di noi e del nostro rapporto con le marche e con le tendenze, gli stili imposti dal sistema moda. Un rapporto che, dicono le ultime indagini, sta radicalmente cambiando rispetto a qualche tempo fa. In che modo sta cambiando e perché? Lo abbiamo chiesto a Stefania Borghini, docente di marketing all'Università Bocconi, autrice della ricerca Dimmi come ti vesti. È da qualche tempo che le donne in particolare hanno un rapporto con la moda, con le marche, soprattutto quelle più importanti, ad esempio quelle legate al lusso, si sta evolvendo. Abbiamo visto qualche segnale qualche anno fa, ma adesso ormai possiamo dire che è affermato. Le donne combinano stili completamente diversi e riescono a creare anche un proprio stile combinando cose che prima non ci saremmo mai immaginate di mettere insieme, quindi abiti low cost con accessori molto costosi,

essere e avere. Nuovo in studio con Essere Avere, seconda parte come sempre dedicata all'analisi delle nuove tendenze in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Oggi parliamo di edu shopping, parliamo cioè di tutte quelle situazioni nel retail o nei prodotti stessi che trasformano l'esperienza di acquisto in un'esperienza di conoscenza. In pratica è la traduzione commerciale dell'edutainment, la forma di intrattenimento che vuole educare e divertire nello stesso tempo. Dai corner che insegnano i segreti del trucco nelle profumerie, ai corsi di cucina nelle insegne del food, fino ai convegni, ai dibattiti organizzati dai grandi nomi del mercato sui temi quali l'alimentazione, il risparmio energetico, il consumo responsabile. Patrizia. Nell'irreversibile cambio di modalità relazionale tra la marca e il cliente consumatore, di cui diamo conto settimanalmente anche noi descrivendo fenomeni, casi, tendenze del mondo dei consumi, appunto, possiamo collocare anche l'edu shopping e nemmeno necessariamente legato al divertimento educativo, l'edutainment, appunto. La marca non è più solo adorata dal suo pubblico, che è diventato, sappiamo, esigente, critico, intraprendente, partecipativo. Ha capito che deve entrare in relazione con questo pubblico, deve gestire questa relazione e quindi conversa, facilita flussi informativi bidirezionali, insomma si mette in gioco e lo fa con nuovi messaggi, nuovi punti di contatto, nuovi canali di comunicazione, appunto per informare di più. Un esempio importante italiano è Barilla CFN Center for Food and Nutrition, che promuove eventi, forum, convegni sui temi dell'alimentazione in senso stretto, per esempio comunicando la nuova piramide che classifica gli alimenti sulla base del loro impatto sull'ambiente ma anche sull'organismo, e in senso più ampio aprendo un dibattito sul futuro del cibo e della nutrizione che coinvolge i maggiori esperti internazionali di settori come la medicina, la nutrizione, appunto la sociologia, l'energia, l'economia, eccetera. L'obiettivo dichiarato a metà 2009, quando è stato fondato il centro, è rendere disponibili a tutti gli indirizzi e le raccomandazioni sull'universo della nutrizione, dell'ambiente, dell'economia e della cultura alimentare. Dunque lo sharing delle conoscenze, delle nuove conoscenze. Anche il punto di vendita, per esempio, già dispensatore, come sappiamo, di esperienze altre, oltre che di prodotti e servizi, può diventare un luogo dove studiare e imparare. Il prefisso edu, appunto da education, rimanda all'apprendimento, all'istruzione, e tra le molte cose quindi che si possono fare oggi in un negozio, oltre all'acquisto, c'è appunto l'occasione per formarsi come consumatori, clienti ed essere all'altezza dei mercati contemporanei. Si fa shopping e si impara. Tecnicamente si chiama learning by shopping, imparare mentre si acquista. Paradigmatico in tema di edu shopping nel mondo food è Italy, l'insegna italiana, il supermercato gourmet didattico, possiamo dire, con i suoi percorsi guida nelle storie dei singoli prodotti, delle terre, dei processi di lavorazione, un punto di vendita che fa educazione alimentare con una sua didattica che si esprime in ogni singolo particolare di questo format assolutamente innovativo ed efficace sul piano proprio della comunicazione, grazie a tutte le soluzioni espositive altamente coinvolgenti in termini di scoperta e di esplorazione. Altro esempio di learning by shopping è Conflict Kitchen, un ristorante di Pittsburgh americano, una sorta di ristorante performance che serve piatti selezionati dalle cucine tradizionali di paesi, diciamo così, in conflitto culturale o manifesto con gli Stati Uniti, e di fatto questo ristorante apre come espediente per approfondire, anche in modo piacevole con eventi a tema, performance artistiche, discussioni, le questioni geopolitiche contemporanee, partendo dalla cultura dei paesi coinvolti e dalla loro espressione più immediatamente avvicinabile, cioè il cibo. Tra le molte modalità informative inedite di volta in volta inventate da Conflict Kitchen, per esempio sulla carta che avvolge i cibi takeaway vengono stampate ad esempio delle interviste di iraniani residenti a Pittsburgh, oppure residenti in Iran sul tema del cibo e poesie sull'attuale clima politico. In tempi di globalizzazione, sapere da dove arriva il cibo che si sta per comprare, come è stato prodotto, inscatolato, conservato e anche trasportato, interessa sempre di più, come sappiamo, i consumatori. E su queste informazioni, cioè sulla tracciabilità dei cibi freschi che vende, la catena di supermercati americana Kroger, che ha circa 2.500 negozi in 31 stati, in partnership con HarvestMark, ha creato un suo posizionamento distintivo proprio come primo rivenditore che offre i prodotti tracciabili a marchio HarvestMark. E grazie a un'applicazione gratuita per iPhone che legge un codice a barre arricchito di informazioni appunto fino alla fonte o sul sito direttamente nei negozi, offre la possibilità di apprendere tutto sulla filiera dei prodotti venduti. Questo è anche importante nel caso del cosiddetto recall, cioè quando un prodotto viene segnalato a rischio e quindi da ritirare, si può subito controllare nel proprio frigorifero. Più informazione quindi che oggi i consumatori e i clienti sono in grado di cercare e decodificare, più sicurezza e più salute, due desiderata primari di questa ipermodernità. E oggi si parla di tracciabilità non solo per il cibo, ma anche per i prodotti artigianali, ad esempio. C'è la voglia di sapere appunto dove, come, da chi vengono coltivate le zucchine che mangiamo, tanto per fare un esempio, così come di chi sono le mani che hanno costruito l'oggetto che abbiamo in casa. È proprio quello che fa Humade, brand italiano di prodotti artigianali d'avanguardia, così vengono definiti, inserendo sul sito nome e codice del prodotto acquistato. Si scopre Who Made It, chi l'ha fatto appunto. Ecco un esempio. Nella regione indiana del Bastar, la tecnica di fusione del metallo a cera persa è associata alla comunità Gadva, che nell'etimologia locale significa dar forma, creare. L'abilità manuale di Mani Mishra, artigiano figlio di una lunghissima stirpe di artigiani, è prima di tutto frutto di un'arte e di una tecnica millenaria, fatta da decine di operazioni artigianali, dalla modellazione dettagliata in cera d'api del singolo pezzo, alla costruzione dei canali di fusione, degli sfiatatoi dei chiodi di sostegno, al triplo rivestimento di tonaca, fino alla cottura dello stampo. Ogni pezzo della collezione in ottone viene fuso singolarmente e lucidato a mano, con uno stampo chiuso a perdere. Patrizia, potremmo definirlo un passo obbligato oggi per le aziende che si trovano di fronte consumatori preparati, informati, in una parola critici? E certo, i consumatori educati di oggi, certamente educati non vuol dire persona per bene, ma preparato, consapevole, cosciente, riflessivo, anche furbo, quindi dall'intelligenza creativa, un profilo a cui abbiamo dedicato peraltro una recente puntata, quella sul trickster, sulla pratica della trickery. Insomma, senz'altro più difficile per la marca, per i prodotti, i servizi, le aziende relazionarsi con questi consumatori, clienti colti, che però sono anche sempre pronti a saperne di più, a cambiare anche idea, ad essere convinti sulla base di informazioni fondate e circostanziate. Questa è una nuova opportunità, certamente, per le aziende e per i marchi che possono contare appunto su maggiore attenzione, maggiore tempo disponibile ad imparare quello che l'azienda vuole far sapere e più interesse. Quindi i prosumer contemporanei sono disposti anche alla fatica dell'apprendimento, cioè disposti ad imparare che cosa c'è dietro il prodotto, perché comunque ne va della salute del proprio corpo se parliamo di cibo, di quella del pianeta se parliamo di packaging, della sicurezza se parliamo per esempio di giocattoli per bambini o del bilancio familiare se parliamo di energia. Ed ecco che nelle nostre case entrano per esempio i misuratori in tempo reale dei consumi di gas e di elettricità. Potremmo etichettarla info branding, la brandizzazione fatta con l'infografica. È l'operazione del designer Audrey Lapierre, che ha sviluppato un concept molto interessante di packaging informativo educativo per il cartone del latte. Le informazioni nutrizionali sono rappresentate con l'infografica, diventano esse stesse quindi le immagini, la grafica e i testi del packaging. Tutta la superficie dell'involucro, del cartone, diventa informazione utile, non più relegata a caratteri da lente di ingrandimento in un riquadro minimo, quindi quasi un'informazione opzionale, ma ricoprono l'intera superficie. Tra i molti modi per istruire il consumatore, la marca, le aziende hanno naturalmente la pubblicità, la comunicazione che per loro natura continua a promettere l'impossibile, ma anche si impegna per rendere empowered, come si dice, cioè più attrezzato il proprio pubblico a riconoscere l'eventuale inganno. Un esempio è la recente pubblicità di Lottomatica. Dice: l'importante è avere un filo di buon senso, si vede un ippopotamo funambolo su una corda sospesa. Il claim continua: gioca senza esagerare, se ritieni di avere un problema relativo al gioco chiamaci. Un messaggio quindi che invita paradossalmente alla moderazione nella fruizione di un servizio che comunque sta promuovendo. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo in Nuova Zelanda su Edu Shopping e dintorni? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Bentornata Alessia. Grazie, un saluto a tutti. Beh, in tema di educazione non possiamo tralasciare i più piccoli. Si stima che circa 50 milioni di bambini solo nei paesi anglofoni sono affetti da malattie più o meno gravi. È a questo, ahimè, vasto pubblico che si rivolge Kids Comics, una casa editrice che propone e pubblica una serie a fumetti pensata per divulgare informazioni mediche. I protagonisti sono i Medikids, una gang di 5 supereroi, ognuno specialista di una parte del corpo. I Medikids vivono a Mediland, un pianeta vivente che ha le sembianze di un corpo umano. Si parla di autismo, allergie alimentari, epilessia, diabete, obesità. Insomma, tutti i tipi di patologie vengono passati in rassegna, anche quelle più serie, che spesso non solo i più piccoli, ma anche i loro genitori faticano a comprendere. I contenuti sono interamente sviluppati da un team medico di esperti e prima di essere pubblicato ogni numero viene sottoposto a verifica e approvazioni allargate. La premessa da cui parte questo progetto non è edulcorare il concetto di malattia, quanto fornire ai bambini gli strumenti per gestire la propria situazione con maggiore consapevolezza. È qui che entra in gioco il fumetto, un mezzo divertente che utilizza un linguaggio familiare e coinvolgente e in più veicola conoscenze che migliorano la qualità della vita dei piccoli lettori. Grazie Alessia, speriamo che arrivino presto anche tradotti in italiano. Patrizia, siamo in conclusione. Per i prodotti verdi il pericolo numero uno si chiama greenwashing, ovvero la pennellata verde falsa di chi vuole in qualche modo cavalcare l'onda dell'ecosostenibilità. Quando si parla di informazione e shopping, il rischio di contenuti modificati, edulcorati, se non addirittura falsi, esiste? Certo che il rischio c'è, però sappiamo anche che è un boomerang, proprio come nel caso del greenwashing, cioè dire che sia sostenibile non esserlo non paga perché si viene smascherati. Vale la pena a questo punto proposito ricordare un paio delle 95 tesi del Clue Train Manifesto, il manifesto della cultura digitale dei nuovi mercati multicanale crossmediali. La tesi numero 10: i mercati sono più intelligenti, più informati, più organizzati. Qui mercati significa i nuovi consumatori. La tesi numero 12: non ci sono segreti, il mercato online conosce i prodotti meglio delle imprese che li fanno e se una cosa è buona o cattiva lo dicono a tutti. Per dire che tra marca e consumatore cliente ci sono i nuovi saperi circolanti, soprattutto in rete. Una via per una buona relazione è la trasparenza e il rilascio delle informazioni a vero valore aggiunto, fondate, da declinare anche in termini di customer, aggiungiamo edu experience. Essere avere @radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti per le nuove puntate al via da settembre. Per la rassegna estiva ci risentiamo domenica prossima alle 16. Come sempre, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.